Terzo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, terzo canto. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Ed elli a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siam venuti al loco ov'i t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose c'hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui vi sospiri, pianti, e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suon di manco nelle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, ch'avea d'error la testa cinta, dissi: Maestro, che è quel ch'i odo, e che gent'è che par nel duol sì vinta? Ed elli a me, questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccian li i ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte? Rispuose, dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E io, che riguardai, vidi una insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non averei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e a nemici sui. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lagrime ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi, ch'a riguardar oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, perch'io dissi, Maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parer sì pronte, com'io discerno per lo fioco lume. Ed elli a me, le cose ti fier conte, quando noi fermerem li nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non il mio dir li fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco, verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando, «Guai a voi, anime prave!» Non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui: caron, non ti cruciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e il loco e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tutte le raccoglie. Batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie, l'una presso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio, tutti convegnon qui, d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e caddi come l'uom cui sonno piglia. Fine del terzo canto dell'Inferno.